ਛੱਡ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕੀਕਰ ਲੱਗਾ ਮਾਹੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੰਗ ancora giù con voi, yeah, con le mani e con i piedi nella vostra stanza, e non mi sposti più di qui, bro. Parla come mangi quando il cuoco sono io, se cucino piatti ad hoc per chi grida il nome mio. Prendimi sul serio quando dico, non mi foto con le tecniche, se no sarei un altro. Tutti quattro quarti, con quattro arti, mani e piedi impegnati a farvi fare i salti. Da un buccio e galli per troppe situazioni, quindi vai a quel paese insieme alle tue inibizioni. Mad Kid fa il suo rap come viene, senza schemi né barriere, prendo a calci le tue storie. Pace e bene per quella gente che supporta, dell'altra non mi importa, neanche mi sopporta. Burla, roba assurda, ti vendo piatti sani come nel bis, carote e verdura. Ti sussura la salute a fare il bad boy per voi, Matthew Kid, Kid Rap Boy. Facciamo usando le mani e i nostri piedi, quello che porta in strada sfonda tutti i vostri schemi. Non ci pieghiamo come film di Salieri, lascio le pare a te che fai sbavare le punani. Lo facciamo usando le mani e i nostri piedi, quello che porta in strada sfonda tutti i vostri schemi. Non ci pieghiamo come film di Salieri, lascio le pare a te che fai sbavare le punani. Con le mani e con i piedi nella stanza, crolla tutto quanto finché chiami l'ambulanza. Nel club, nel pub, in car, ti servo pranzo grasso dopo il Ramadan. Con le mani e con i piedi nella stanza, crolla tutto quanto finché chiami l'ambulanza. Nel club, nel pub, in car, ti servo pranzo grasso dopo il Ramadan. Metto cuore, polmoni, testa, misto istinto, stesse cose tue però a me non mi hai convinto. Un testo in un minuto contro il tuo freestyle ridicolo, ti faccio così piccolo che può servire un binocolo. Amico, dai un assaggio il talento, tanto che sto dolce è consigliato dal dietologo. Tu compri il disco, quello stereo che mi suona, io compro il tuo ma la mia ernia lo rifiuta. Sono una star, per chi non ti fa Milan, i miei palleggi in rima gli hanno imbambolato Dida. Tutta vita, perché adesso sta in panchina, come un fattone perso che ha fumato la cartina. L'impegno è tanto per darvi qualcos'altro, fanculo e concept album, il rap non so dosarlo. Metto le rime, voi leggete fra le righe, con le mani e con i piedi, hip hop senza tossine. Lo facciamo usando le mani e i nostri piedi, quello che porto in strada sfonda tutti i vostri schemi. Non ci pieghiamo come film di Salieri, lascio le pare a te che fai sbavare le punani. Lo facciamo usando le mani e i nostri piedi, quello che porto in strada sfonda tutti i vostri schemi. Non ci pieghiamo come film di Salieri, lascio le pare a te che fai sbavare le punani. Dear boy, inizia per preparare il tuo stomaco. T-Mad Kid presto fuori con le mani e con i piedi, new album by TRB Records. E questo era solo un remix di AZE per Remixland. Yeah, yeah, Teramo Pescara.